Inizia la quarta puntata di Un racconto al giorno. Scoprì il nascondiglio perché c'era finito il pallone. Dietro la nicchia della statua, nel cortile del palazzo, c'era una botola coperta da due tavolette di legno. Mi accorsi che si muovevano quando ci misi i piedi sopra. Mi prese paura. Recuperai la palla e sgusciai fuori tra le gambe della statua. Solo un bambino smilzo e contorsionista come me poteva infilare la testa e il corpo tra le gambe poco divaricate del re guerriero dopo aver aggirato la spada piantata giusto davanti ai piedi. La palla era finita lì, dietro, dopo un ribalzo di sponda tra la spada e la gamba. La spinsi in fuori, gli altri ripresero il gioco mentre mi attorcigliavo per uscire. Le trappole sono facili a entrare, ma per uscire c'è da sudare. Avevo pure una fretta di paura. Ripresi il mio posto in porta. Mi facevano giocare con loro perché recuperavo la palla dovunque finiva. Una destinazione abituale era il balcone del primo piano, una casa abbandonata. La voce era che ci abitava un fantasma. I vecchi palazzi contenevano botole murate, passaggi segreti, delitti e amori. I vecchi palazzi erano nidi di fantasmi. Andò così la prima volta che salì al balcone. Dal finestrino a piano terra del cortile dove abitavo, il pomeriggio guardava il gioco dei più grandi. Il pallone calciato male schizzò in alto e finì sul terrazzino di quel primo piano. Era perduto, un superflex paravinil, un po' sgonfio per l'uso. Mentre che bisticciavano sul guaio, mi affacciai e chiesi se mi facevano giocare con loro. «Sì, se ci compri un altro pallone». «No, con quello», risposi. Incuriositi accettarono. Mi arrampicai lungo un tubo dell'acqua discendente che passava accanto al terrazzino e proseguiva in cima. Era piccolo e fissato al muro del cortile con dei morsetti arrugginiti. Cominciai a salire, il tubo era coperto da polvere. La presa era meno sicura di quella che mi ero immaginato. Mi ero impegnato ormai. Guardai in su. Dietro i vetri di una finestra del terzo piano c'era lei, la bambina che cercavo di sbirciare. Era al suo posto, la testa appoggiata sulle mani. Di solito guardava il cielo, in quel momento no, guardava giù. Dovevo continuare e continuai. Per un bambino 5 metri sono un precipizio. Scalai il tubo puntando i piedi sui morsetti fino all'altezza del terrazzino. Sotto di me si erano azzittiti i commenti. Allungai la mano sinistra per arrivare alla ringhiera di ferro. Mi mancava un palmo. In quel punto dovevo fidarmi dei piedi e stendere il braccio che teneva il tubo. Decisi di farlo di slancio e ci arrivai con la sinistra. Ora dovevo portarci la destra. Strinsi forte la presa sul ferro del terrazzo e buttai la destra ad afferrare. Persi l'appoggio dei piedi. Le mani ressero per un momento il corpo nel vuoto, poi subito un ginocchio, poi due piedi e scavalcai. Com'è che non avevo avuto paura? Capii che la mia paura era timida. Per uscire allo scoperto avevo bisogno di stare da solo. Lì invece c'erano gli occhi dei bambini sotto e quelli di lei sopra. La mia paura si vergognava di uscire. Si sarebbe vendicata dopo. La sera al buio nel letto, col fruscio dei fantasmi nel vuoto. Buttai il pallone di sotto, ripresero a giocare senza badare a me. La discesa era più facile, potevo stendere la mano verso il tubo contando su due buoni appoggi per i piedi sul bordo del terrazzino. Prima di allungarmi verso il tubo guardai veloce al terzo piano. Mi ero offerto all'impresa per desideri che si accorgesse di me, minuscolo scopettino da cortile. Era lì con gli occhi sbarrati. Prima che potessi azzardare un sorriso era scomparsa. Stupido a guardare se lei stava guardando. Bisogna crederci senza controllare, come si fa con gli angeli custodi. Mi arrabbiai con me, buttandomi lungo il tubo in discesa per togliermi da quel palcoscenico. Sotto mi aspettava il premio, l'ammissione al gioco. Mi misero in porta e fu così deciso il mio ruolo. Sarei diventato portiere. Da quel giorno mi chiamarono a scimmia, la scimmia. Mi tuffavo in mezzo ai loro piedi per afferrare la palla e salvare la porta. Il portiere è l'ultima difesa. Deve essere l'eroe della trincea. Prendevo calci sulle mani, in faccia. Non piangevo. Ero fiero di giocare coi più grandi, che avevano 9 anche 10 anni. Capitò altre volte il pallone sul terrazzino. Ci arrivavo in meno di un minuto. Davanti alla porta da difendere c'era una pozzanghera per una perdita d'acqua. All'inizio del gioco era limpida. Potevo vederci di riflesso la bambina ai vetri, mentre la mia squadra attaccava. Non la incontravo, non sapevo com'era il resto del corpo, sotto la faccia appoggiata alle mani. Nei giorni di sole del mio finestrino arrivavo a risalire a lei attraverso un ribalzo di vetri. Restavo a guardarla finché non mi lacrimavano gli occhi per la luce. I vetri chiusi della finestra del cortile permettevano al riflesso con lei dentro di affacciarsi fino al mio angolo d'ombra. Quanti giri facevi il suo ritratto per raggiungere il mio finestrino? Da poco in un appartamento del palazzo era arrivato un apparecchio televisivo. Sentivo dire che si vedevano persone e animali che si muovevano, ma senza i colori. Invece io potevo guardare la bambina con tutto il marrone dei capelli, il verde del vestito, il giallo che ci metteva il sole. Andavo a scuola. Mia madre adottiva mi scriveva, però non la vedevo. Si occupava di me Don Gaetano il portiere. Mi portava una pietanza calda la sera. Al mattino, prima della scuola, gli riportavo il piatto pulito e lui mi scaldava una tazza di latte. Nello stanzino abitavo da solo. Don Gaetano parlava quasi niente. Era cresciuto orfano pure lui, però in orfanotrofio. Non come me che stavo libero nel palazzo e uscivo per la città. Mi piaceva la scuola. Il maestro parlava ai bambini. Venivo dallo stanzino dove nessuno parlava a me e lì c'era uno da stare a sentire. Imparavo tutto quello che diceva. Era una cosa bellissima, un uomo che spiegava ai bambini i numeri, gli anni della storia, i posti della geografia. C'era una carta colorata del mondo. Uno che non era mai uscito dalla città poteva conoscere l'Africa che era verde, il Polo Sud bianco, l'Australia gialla e gli oceani azzurri. I continenti e le isole erano di genere femminile, i mari e i monti maschili. Ho salvato gli alberi chiagnano, i frutti si sono fracetati, veleno fumo e cielo grigio, quando a mano vostra non è arrivato, e poi paura a carna a noi. E se deserto, rami sei. A scuola c'erano i poveri e gli altri. Quelli della povertà, come me, ricevevano alle 11 un pane con una marmellata di cotogne portata dal bidello. Con lui entrava un profumo di forno che squagliava la bocca. Agli altri, niente. Loro avevano una merenda portata da casa. Un'altra differenza era che quelli della povertà in primavera avevano la testa rasata per i bidocchi, gli altri conservavano i capelli. Si scriveva con il pennino e con l'inchiostro che stava in ogni banco dentro un buco. Scrivere era una pittura. Si intingeva il pennino, si facevano cadere gocciole finché ne restava una e con quella si riusciva a scrivere una mezza parola. Poi si intingeva di nuovo. Noi della povertà asciugavamo il foglio con il fiato caldo. Sotto il soffio, il blu dell'inchiostro tremava cambiando colore. Gli altri asciugavano con la carta assorbente. Era più bella la nostra mossa che faceva vento sopra il foglio steso. Invece gli altri schiacciavano le parole sotto il cartoncino bianco. In cortile i bambini giocavano in mezzo al passato remoto dei secoli. La città era vecchissima, scavata, imbottita di grotte e nascondigli. Nei pomeriggi d'estate, quando gli abitanti erano in villeggiatura o scomparivano dietro le persiane, andava in un secondo cortile dove c'era la bocca di una cisterna coperta da tavole di legno. Mi ci sedevo sopra a sentire i rumori. Dal fondo, chissà quanto più giù, veniva un fruscio di acqua mossa. C'era una vita rinchiusa lì sotto, un prigioniero, un orco, un pesce. Tra le tavole saliva l'aria fresca e asciugava il sudore. Avevo nell'infanzia la più speciale libertà. I bambini sono esploratori e vogliono conoscere i segreti. Tornai perciò dietro la statua per vedere dove portava la botola. Era agosto, il mese in cui i bambini crescono di più. In un primo pomeriggio mi infilai tra i piedi la spada della statua, che era la copia del re Ruggero il Normanno, davanti al palazzo reale. Le tavolette di legno erano fissate bene, si muovevano ma non si sollevavano. Avevo portato con me il cucchiaio, con quello scrostai le aderenze. Spostai le due tavole, sotto c'era il buio, che scendeva. Venne la paura, approfittando che non c'era nessuno. Non si sentiva rumore di acqua. Era un buio asciutto. La paura dopo un po' si stanca. Anche il buio era meno compatto, vedevo un paio di pioli di una scala di legno che scendeva. Allungai un braccio per toccare l'appoggio. Era robusto e impolverato. Ricoprì il passaggio con le tavolette. Per quel giorno avevo scoperto abbastanza. Tornai con una candela. Un fresco saliva dal buio e mi toccò le gambe nude dei calzoni corti. Scendevo in grotta. La città sotto ha il vuoto. Quello è il suo appoggio. Alla nostra massa di sopra corrisponde altrettanta ombra. È quella a reggere il corpo della città. Quando toccai terra accesi la candela. Era il deposito dei contrabbandieri delle sigarette. Sapevo che andavano a prenderle con i motoscafi al largo. Avevo scoperto un magazzino. Ci rimasi male. Speravo in un tesoro. Ci doveva essere un altro ingresso. Quelle casse non potevano passare tra le cosce del re. Infatti c'era una scala di pietra dalla parte opposta a quella di legno. Il camerone era quieto, il tufo cancella i rumori. In un angolo c'era una branda, un materasso, dei libri, una Bibbia. C'era pure un gabinetto di quelli da stare accovacciati. Risalii triste, non avevo scoperto niente. Non mi venne e non poteva venirmi in mente di dirlo alla polizia. Tradire un segreto, rivelare un nascondiglio. Sono cose che un bambino non fa. In un'infanzia fare la spia è un'infamia. Non fu neanche un pensiero scartato. Non venne. Quell'agosto scesi spesso al deposito. Mi piaceva il fresco e il silenzio riposato del tufo. Cominciai a leggere quei libri, seduto sulla scala a pioli dove entrava la luce. La Bibbia no. Dio mi faceva impressione. Così presi il vizio di leggere. Il primo si chiamava i tre moschettieri, ma erano quattro. In cima alla scala, coi piedi a penzoloni, la mia testa imparava a prendere luce dai libri. Quando li finì, ne volevo ancora. In discesa dal vicolo dove abitavo, ci stavano le botteghe dei librai che vendevano agli studenti. Fuori tenevano libri usati in offerta nelle cassette di legno, sul marciapiede. Cominciai ad andare là, a prendere un libro, a mettermi a leggere seduto per terra. Uno mi cacciò, andai da un altro e quello mi fece stare. Un bravo uomo, Don Raimondo, uno che capiva senza spiegazioni. Mi dette uno sgabello per non farmi leggere per terra. Poi mi disse che mi prestava il libro se glielo riportavo senza sciuparlo. Gli risposi grazie, che glielo riportava il giorno dopo. Passai tutta la notte a finirlo. Don Raimondo vide che ero di parola. Mi fece portare a casa un libro al giorno. Sceglievo quelli sottili, presi il vizio d'estate, per mancanza del maestro che insegnava le cose nuove. Non erano libri per bambini. Molte parole in mezzo non le capivo, però alla fine sì, la fine la capivo. Era un invito a uscire. 10 anni dopo ho saputo da Don Gaetano che nel Camerone si era nascosto un ebreo nell'estate del 43. Ero all'ultimo anno di scuola e Don Gaetano aveva cominciato a darmi confidenza. Abbiamo letto l'incipit de Il giorno prima della felicità di Henry De Luca.